La pietra tombale posta dai sindacati sulla trattativa con Air France sulla privatizzazione apre una prospettiva cupa per l'Alitalia. L'unica alternativa all'offerta francese è un sogno o il fallimento, aveva detto ieri mattina il ministro Padoa-Schioppa. Spinetta è tornato a Parigi, Prato si è dimesso, l'Alitalia torna nel caos. Il fallimento è più vicino, ma non è ancora il giorno per la nomina del commissario. Il consiglio di amministrazione della compagnia si riunisce oggi. I quattro superstiti potrebbero dimettersi in blocco, oppure potrebbero fare melina e tirare avanti un po'. La liquidità consente di arrivare a fine mese. L'impressione è che la grana all'Italia sia già iscritta come il primo tema nell'agenda del dopo elezioni.